sempre le coscienze critiche dei processi rivoluzionari ricevono il plauso che si meriterebbero. Sono più le volte che vanno a finir male. Babeuf vigilava furente sull'andazzo che stava prendendo la rivoluzione francese. Diceva e scriveva che la rivoluzione veniva costantemente tradita, che i suoi capi erano corrotti e ben poco propensi al necessario sacrificio, che una svolta reazionaria si andava succedendo all'altra. Arrestato, se la cava una volta grazie all'intervento di Marat. Invece di starsene cheto, ci ridà dentro con più fiato di prima e nel 1797 lo riarrestano, lo processano in 448 e mandano lui nel medesimo posto che aveva predestinato per i suoi giudici, ovvero sotto la ghigliottina. Il 14 vendemmiaio dell'anno terzo, sulle colonne del proprio giornale, Le Tribune du Peuple, il Tribuno del Popolo, Babeuf spiega perché cambia nome. La convenzione aveva decretato il divieto, pena arresto e multa, di cambiare nome. E Babeuf, al quale le ragioni di ciò non saranno di certo sfuggite, perché è facilmente immaginabile che in un periodo di rivolgimenti sociali qualcuno speri di far perdere le proprie tracce, ed è pertanto ovvio che la convenzione cerchi di porvi rimedio, a Babeuf questo non sarà di certo sfuggite, però queste ragioni però non le vuole sentire e sente subito puzza di liberticidio. Più o meno ragiona nel modo seguente. Allora, il dispotismo sacerdotale ci ha fino ad ora imposto nomi fanatici, nomi che non godono del nostro consenso di cittadini liberi, fratelli ed uguali. Il nome invece, secondo lui, secondo Babeuf, il nome deve costituire una sorta di modello da imitare. Ed ecco spiegato perché oggi non lo si ricorda come François Noël Babeuf, no, ma come Gracchus. Così, alla stessa stregua, qualche anno prima, Jean-Baptiste Clootz e Pierre-Gaspard Chaumette, altri due rivoluzionari duri e puri, furono rispettivamente Anacharsis e Anaxagoras, senza peraltro che il loro esempio insegnasse alcunché al povero Babeuf. Che la scelta del nome proprio e in certe circostanze risponda alle esigenze di una teoria e che nelle circostanze tutte speciali in cui è in gioco un mutamento radicale del quadro ideologico la scelta del nome risponda all'ingenua teoria che vorrebbe il nome come dichiarazione esplicita di un modello da imitare è evidente a mio avviso anche in un esempio ben diverso per ambito e per localizzazione temporale. Nel 1943 sorge a Trento il movimento cattolico de Il Focolare. Per comprenderne il nome, non si deve fare gran fatica. Il focolare è il piano di pietre per accendervi il fuoco, che per metafora, una metafora già in uso nel XIII secolo, per metafora viene a designare l'insieme ideale di chi attorno a questo fuoco sta a riscaldarsi. Chi è lontano dal fuoco è fuori, sta al freddo e si fretta, come diceva mia nonna. Lo fonda questo movimento una ex maestra di scuola elementare che si chiama Silvia Lubich, ma che per dirigerlo meglio si ribattezza Chiara. Chiara, come Chiara di Assisi, santa e amica di un santo come Francesco, fondatrice intorno al 1215 del secondo ordine francescano. Venne chiamato l'ordine delle povere donne, poi le Damianiste, dal nome della chiesa in cui Chiara e le sue compagne si ritirarono, e infine le Clarisse. fatto non nuovo nella storia del cattolicesimo, l'idea della fondatrice si insedia rapidamente nelle menti della gerarchia, che intanto va di pari passo formandosi alla diffusione del movimento stesso. È per questo che, per esempio, tal Pasquale diventa Chiaretto e tal Igino diventa Foco, utilizzando così i due ceppi semantici di base, no? Quelli del nome scelto dalla fondatrice e del nome del movimento medesimo, lasciando ai gradi inferiori battesimi ugualmente agognati dalle vittime di turno, ma modellisticamente meno rilevanti. Sappiamo bene di altre categorie di persone che cambiano nome, gli attori, gli uomini di spettacolo, i cantanti, gli scrittori, perfino qualche uomo politico, le persone con ambizioni pubbliche in genere, diciamo. Così come Antonio De Curtis diventa Totò, Lorenzo Cherubini diventa Jovanotti, così come Alberto Pinkerle diventa Moravia, Giacinto Pannella diventa Marco, eccetera. A monte delle singole scelte non c'è una singola teoria unitaria. Qualche nome è scelto in rapporto al contesto in cui deve essere ricordato, deve suonar bene magari. Qualcun altro è scelto in sprezzo del nome che, come diceva Babeuf, ci è stato imposto dal dispotismo sacerdotale. Qualcun altro ancora è stato scelto in rapporto alla valorizzazione di sé e del proprio ruolo nel mondo. Il caso dei partigiani nella Resistenza da questo punto di vista è chiarissimo. Sono chiamati Fulmine, Bella, Corallo, Tom Mix, Bologna, Tolstoi, sì, d'accordo, ma anche Guido, Mario, Pippo, Pino, Nani. Non sempre o quasi mai, voglio dire, il nome è stato scelto perché rappresentava un modello da imitare. Perfino Tolstoi, ecco che fu il nome di battaglia di Giuseppe Fasoli, perfino Tolstoi dubito che potesse costituire un vero e proprio modello. Uno che in tempo di guerra si dà alla lotta clandestina può aspirare a farlo, ma è difficile che possa praticare davvero il pacifismo professato dal pensatore russo. La scelta del nome da partigiano, in altre parole, rispondeva per lo più ad esigenze di clandestinità e serviva soprattutto a salvare la pelle propria e altrui. I casi di Klotz e di Chaumette non hanno insegnato nulla a Babeuf. Il fatto che uno avesse deciso di chiamarsi Anacarsis e l'altro Anaxagoras non ha impedito a Babeuf di chiamarsi Gracchus, ovvero di adeguarsi anche lui a quella logica classicistica che aveva guidato i suoi due predecessori sotto la ghigliottina, perché a Klotz e a Chaumette avevano tagliato la testa già nel 1794. Allorché rivoluzionari e aspiranti alla beatificazione cambiano nome e cedono ad un moto di debolezza che può rivelarsi letale. Allorché poi connettono questa esigenza alla convinzione che un nome costituisca comunque un modello da imitare, predispongono la catastrofe propria e quella altrui, anche quella dei propri accoliti. Un nome, come insegnano i personaggi dello spettacolo, ha importanza soltanto in una società dove è premiata l'apparenza. I rivoluzionari sbagliano ad avvalorare i miti classicistici e tutta quella paccottiglia storica che è pur sempre il prodotto di quella società che dicono di voler sovvertire. Fanno implicitamente il contrario di quanto esplicitamente affermano. Quei nomi hanno senso e significato soltanto all'interno di una storia che non è la loro. Non a caso tutto il marciume dell'ideologia classicistica riappare in termini di grecità e di romanità sulla superficie di due finte rivoluzioni come il nazionalsocialismo e il fascismo. Gli aspiranti alla beatificazione, infine, sbagliano, per così dire anche dal loro stesso punto di vista. A maggior ragione sbagliano quelli che sull'enfatizzazione della casa famiglia, come il movimento del focolare, un'enfatizzazione che rammenta fin troppo bene certe missioni anticomuniste originarie di costoro, quelli che sull'enfatizzazione della casa famiglia costruiscono i propri marchingegni retorici e il proprio apparato ideologico. C'è presunzione e protervia nel cambiare il proprio nome. Un aspirante alla beatificazione non può pensare, come può pensare Babeuf, di averci addosso un nome fanatico. Un nome che è pur stato assegnato dai genitori, ovvero da qualcuno che nella casa famiglia dovrebbe contare per l'appunto qualcosa. E c'è presunzione e protervia nell'assumerne uno che per loro rappresenta un'opzione estremamente significativa, un esempio storico inimitabile. Sì, inimitabile, ma entro certi limiti, perché è imitabile da loro.